Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e getta uno sguardo sul mondo, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Una chiave di lettura che permette di cogliere tendenze di lungo periodo e prospettive del futuro che a noi paiono spesso sorprendenti. È la puntata numero 694 e parleremo di cani e altri animali domestici, di manguste e di orsi, di libri e di cucina, sperando di tenere attivo e alto il vostro interesse per la prossima mezz'ora. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala, la ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni. Oggi vogliamo mettere al centro della nostra attenzione i cani, definiti vox populi i migliori amici dell'uomo, ma anche soggetti a forme molto stringenti di controllo e di oppressione. L'immagine del cane alla catena, una delle forme più odiose di controllo, è ancora assai diffusa nelle nostre campagne, sia nei pressi di abitazioni di residenza, sia fuori dai centri abitati. Quest'ultima è la fattispecie che tocca tipicamente ai cani detti da caccia. La catena non è dunque il residuo di un'epoca passata, ma fa parte del nostro presente e del nostro rapporto con questi animali. Proprio in questi giorni arriva a Bruxelles, alle istituzioni europee, il testo di una petizione promossa da Fondazione Cave Canem, Green Impact e Animal Law Italia e firmata da circa 40.000 persone per ottenere una legge generale che vieti la pratica di detenere i cani costretti alla catena in luoghi lontani dalle abitazioni. Al momento in Italia la questione è demandata alla legislazione regionale e così caso per caso si incontrano situazioni differenti. Circa metà del paese ha introdotto normative per il divieto permanente di tenere i cani alla catena. Si tratta delle leggi istituite nelle regioni Lazio, Campania, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Lombardia, Veneto, oltre alla provincia autonoma di Trento. A queste regioni dovrebbe aggiungersi presto anche la Toscana, visto che qualche giorno fa il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che va verso l'introduzione del divieto. Il tema della liberazione del cane, nonostante le apparenze e certe pigre convinzioni, è dunque attuale e non sorprende perciò che il 2, 3 e 4 giugno prossimi al rifugio dei cani ribelli Riot Dog a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, si tenga un incontro sulla liberazione del cane. Ce ne parla uno degli animatori di questo progetto, Luca Spennacchio. Mi chiamo Luca Spennacchio e mi occupo prevalentemente di formazione in ambito cinofilo. Il mio focus principale è sempre stato il canile. E sono sempre stato convinto che una maggior consapevolezza nelle persone e nelle loro scelte, nella loro capacità di comprendere il mondo visto dagli occhi di un cane sia un'opportunità incredibilmente importante per la nostra specie, che porterebbe tra le altre cose ad un sentimento di intolleranza al maltrattamento e alla reclusione in tutte le sue forme. Pongo quindi il cane al centro di una riflessione su molteplici aspetti che ci riguardano, un punto di partenza per metterci in discussione nel rapporto con il mondo e con la vita in senso esteso. E questo evento del 2, 3 e 4 di giugno che si svolgerà presso il Riot Dog rappresenta un momento molto importante per far emergere queste riflessioni che possono poi tradursi in tangibili correnti non solo filosofiche ma anche operative. E credo, e non sono certo l'unico, che i tempi siano maturi perché l'uomo si metta in discussione e riveda le sue priorità, e magari consentendo il riemergere di aspetti fondamentali della nostra stessa natura, come per esempio la curiosità nei confronti della vita, la voglia di esplorare, di lasciarsi contaminare positivamente dalla biosfera nella quale siamo immersi, magari sostituendo lo sfruttamento e la fruizione commerciale della vita stessa, e ricavando così una dimensione di maggiore equilibrio con l'ambiente. Tematiche queste centrali sia nel presente ma soprattutto nel prossimo futuro. Il cane, che per migliaia di anni ha fornito all'uomo ispirazione, supporto, ma non nel senso relativamente recente della zootecnia, ossia dello sfruttamento per fini economici degli altri animali, ma come entità altra da noi che ci svela dimensioni differenti di stare nel mondo, cioè l'opportunità di scoprire quello che davanti ai nostri occhi non appare, o che viene praticamente oscurato da sovrastrutture culturali che non hanno rispetto per la vita, ma che spingono ad alimentare il miraggio del benessere consumistico nato con logiche industriali, oggi francamente anacronistiche. Costrutti che portano al conflitto, all'antagonismo tra gli individui e i popoli, alla clausura del mondo in recinti e riserve per concedere all'uomo il dilagare distruttivo senza alcun rispetto, senza spingere all'adattamento, che poi è una delle doti di cui sopra, no? Dell'Homo sapiens. La nostra grande complessità cognitiva e plasticità viene sterilizzata in favore dell'omologazione, di una comodità illusoria che ci rende il mondo un posto ostile, un posto da controllare, da soggiogare. Insomma, in questo importante evento solleveremo il dibattito su questi temi e su molti altri apertamente, in modo libero. Le cose non pioveranno dall'alto in lezioni frontali come spesso accade nella formazione cinofila alla quale siamo abituati, ma saranno affrontati tutti insieme. Noi organizzatori siamo i promotori, in sostanza coloro che accenderanno le micce, ma la luce del dibattito sarà, per così dire, quella dei partecipanti. Ancora una volta rifletto sul fatto che il tutto partirà dal cane, come spesso è accaduto nella nostra storia. I cani dunque possono essere osservati, studiati, compresi davvero attraverso una relazione e uno scambio liberato da tanti pregiudizi e credenze consolidate. Non è facile superare i condizionamenti e le chiavi di lettura che si sono sedimentate nel tempo. Perciò possono essere aiuti in questo sforzo di immaginazione e di comprensione delle letture. Ve ne proponiamo una, parlando del libro È tempo di mordere, storie minime di cinofilia nera, del collettivo Troglodita Tribe, da tempo impegnato nella costruzione di un nuovo modo di pensare la relazione fra persone umane e cani. È tempo di mordere è pubblicato da Pop Edizioni. È tempo di mordere è un libro decisamente schierato dalla parte dei cani, ma già dal titolo non promette nulla di buono per la vecchia retorica del miglior amico dell'uomo, quella che lo vede sempre rassegnato a obbedire, a sacrificarsi, a servire, a subire. Se poi passiamo al sottotitolo, Storie minime di cinofilia nera, entriamo facilmente nel vivo di una vera e propria ribellione, con tanto di morsi fatali e atroci disgrazie che colpiscono senza pietà gli umani che maltrattano, trascurano, incatenano, picchiano, abbandonano e sfruttano i cani per i loro interessi. Ma non solo, perché a fare una brutta fine ci sono anche quelli che li trattano da peluche viventi, da figlioletti stupidi che non possono sporcarsi, annusare, uscire, correre. A qualcuno potrebbe sembrare un'esagerazione, ma è stato più forte di noi. A un certo punto abbiamo dovuto sguinzagliare la cinofilia nera. È stato necessario. Il fatto è che dopo anni di convivenza con i cani nelle situazioni più disparate, dopo anni di attivismo, di volontariato nei canili, dopo aver scritto alcuni libri su di loro, abbiamo capito che ce n'era un gran bisogno. Vedevamo cani trainati al guinzaglio come sacchi di patate, cani abbandonati in strada, ma anche in giardino o in salotto per intere giornate, cani che non potevano neppure avvicinarsi alle meravigliose e olezzanti piste da annusare, cani robot talmente condizionati da inseguire e riportare sempre la stessa pallina per tutta la vita, cani ridotti in catene con la sola colpa di aver scavato qualche buca in giardino. Non ne potevamo più, e allora abbiamo cominciato a immaginare, a gustare istanti di sublime rivolta. Vedevamo quei cani girarsi improvvisamente e staccare a morsi quella maledetta mano che li teneva sempre legati a un guinzaglio, ormai diventato un cappio. Vedevamo i canini scintillare in una notte di luna piena, vedevamo morsi carpiati, tendini strappati, ossa tranciate. Erano visioni emozionanti e surreali che ci caricavano, che ci permettevano di buttare alla malora l'odioso ruolo di padrone, perché finalmente quegli stessi cani erano liberi di annusare, di incontrarsi, di abbaiare, di essere veramente cani e correre all'assalto della città. Le storie minime di cinofilia nera che rendono gustoso questo libro sono quindi brevi, lapidarie, feroci e al limite della scorrettezza, ma anche ironiche nella loro sanguinaria esagerazione. Sono tutte dedicate a chi sceglie di stare fino in fondo dalla parte dei cani, a chi vuole respirare di sollievo nel gustarsi gli stuzzicanti assalti mortali dei pelosi più belli del mondo. Ogni storia mette in luce una diversa forma di maltrattamento e di ingiustizia perpetrata ai danni di un cane. A volte è plateale, ma ci sono anche quelle più sottili, più veniali, quelle meno considerate, anche quelle che in molti giurano di praticare per il loro bene. Ma c'è un particolare: vengono tutte smascherate inesorabilmente e punite in modo sanguinoso affinché risaltino in tutto il dolore che, nella realtà dei fatti, stanno provocando. Perché questo è un libro in cui tutti i cani del mondo, finalmente uniti, ringhiano, mordono, affondando i denti e scuotendo il muso, senza pietà. E la cinofilia nera è quindi un nuovo modo di intendere l'amore per i cani, un amore più selvatico e sincero, un amore tra il noir e il rosso sangue, un amore che racconta la loro riscossa, che ulula, abbaia e ringhia. All'inizio di È tempo di mordere trovate anche un'interessante nota di approfondimento scritta da Roberto Marchesini, il noto etologo, filosofo e zoantropologo antispecista, che dopo aver letto il libro si è subito schierato con passione dalla parte della cinofilia nera. Cani e gatti, come sappiamo, sono presenti in grande numero nelle nostre case. Si stima che in Italia vivano 9 milioni di cani e 10 milioni di gatti. Sono relazioni, queste, dai molti risvolti, affettivi e di specie, oltre che, naturalmente, economici. Secondo il rapporto Assalco-Zoomark, presentato a Zoomark, appunto, la fiera internazionale dedicata al settore degli animali detti da compagnia che si è tenuto a Bologna nei giorni scorsi, nell'arco del 2022 i generi alimentari per cani e gatti hanno sviluppato un giro d'affari di ben 2,7 miliardi di euro, con una crescita in valore sull'anno precedente pari all'11,4%, mentre in termini di volumi venduti l'aumento è stato solo dello 0,8%, per un totale di 673.000 tonnellate di cibo venduto. Si tratta, come si vede, di cifre enormi e che celano al loro interno sofferenza animale, visto che il cibo per cani e gatti è in larga maggioranza cibo di origine animale. E questa è una grande contraddizione che vivono tutte le persone animaliste e tendenzialmente antispeciste che convivono con cani e gatti. Thank you. of song set us free. Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what life will be, but if we start dreaming now, Lord knows we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Sunshine on your face, send a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Si terrà giovedì 25 al TAR di Trento l'udienza decisiva sull'ordinanza del presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti che dispone la soppressione dell'orsa JJ4, una pena di morte inflitta unilateralmente dopo l'uccisione, probabilmente a opera appunto dell'orsa, di Andrea Papi, un giovane trentino che stava correndo nei boschi. L'ordinanza è stata bloccata, come sappiamo, dal TAR sul ricorso urgente delle associazioni animaliste, ma ora si tratta di esaminare il merito e vedremo come andrà a finire per la povera JJ4, attualmente prigioniera dell'area del Casteller, nei pressi del capoluogo trentino. Dalla Romania intanto arriva un'altra notizia di aggressione orsina a una persona umana. Il racconto è stato fatto dalla stessa vittima, il regista tedesco, specializzato in documentari sugli animali, Andreas Killing. L'attacco è avvenuto in una regione dei Carpazi da parte di un orso bruno, mentre Killing stava girando alcune riprese relative agli uccelli. L'uomo è stato ferito gravemente a un braccio e graffiato la testa e ha raccontato la terribile avventura con un video sui social. È interessante questo video perché Killing ha cercato di analizzare con distacco, con freddezza, con obiettività l'attacco subito. Forse, ha detto, era un'orsa con i cuccioli, oppure un orso maschio che ha avuto un aumento degli ormoni per la stagione degli amori. O ancora l'attacco è stato sferrato perché, ha detto, voleva difendere la carcassa di un animale predato, magari nascosta fra i cespugli. Il regista ha ricordato di aver subito 2 attacchi di orsi in 28 anni in Alaska, ma non violenti come questo. L'orso, ha raccontato, mi ha tolto l'intero cuoio capelluto. Tutto è stato incredibilmente veloce e poi mi ha morso un braccio. Le ferite alla testa sono state ricucite e la mano sinistra è stata ingessata dopo un intervento chirurgico. Il regista ha detto di avere cercato di difendersi con il treppiede della macchina fotografica colpendo l'animale in bocca, quando l'orso però era ormai già sopra di lui. Per gli orsi, ha detto Killing, siamo come altri grandi predatori. un lupo, una lince, una iena, una tigre, un leopardo. Ma finché non entri in una situazione di conflitto, per esempio rivendicando per te stesso fonti di cibo simili, di solito non accade niente di tutto questo. Stavolta non è stato così, ha concluso. Killing è un esperto di vita selvatica ed è quindi consapevole di essere incappato in un incontro sfortunato, come può accadere inoltrandosi in zone disabitate dagli umani e habitat di animali selvatici. Non è semplice capire le motivazioni dell'orso, ma certo, è importante sapere che la presenza di animali selvatici di queste dimensioni è di per sé una fonte di pericolo e che dunque occorre inoltrarsi in certe zone prendendo le dovute precauzioni, sapendo comunque che alcuni rischi inevitabilmente si corrono. Ogni volta che abbiamo affrontato il tema del conflitto fra comunità umane e animali selvatici, conflitto spesso strumentalizzato, lasciando poco spazio a ipotesi di mediazione e cooperazione, ogni volta, dicevamo, è emerso il tema della riduzione forzata del numero degli animali o addirittura della loro eradicazione, cioè dell'uccisione di massa o in alternativa del trasferimento, ipotesi però assai costosa, degli indesiderati. In Giappone il Ministero dell'Ambiente ha confermato in una nota di avere quasi raggiunto l'obiettivo di eradicare le manguste definite infestanti presenti nell'isola di Amami-Oshima, un'isola che è stata dichiarata patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO nel sud-ovest del Giappone. Le manguste sono oggi definite infestanti, ma furono introdotte da amministratori pubblici, rivelatisi col tempo degli apprendisti stregoni. L'introduzione delle manguste era stata decisa con l'obiettivo di ridurre la popolazione dei serpenti velenosi Habu, ma le manguste si sono poi rivelate predatorie nei confronti di altre specie animali viventi nell'isola. Il ministero giapponese, con una certa disinvoltura e senza autocritica, ha spiegato che furono circa 30 le manguste liberate ad Amami a partire dal 1979, con il risultato di ritrovarsi nei primi anni 2000 con una popolazione di oltre 10.000 esemplari. Ben presto, ha detto il ministero, questi animali si sono rivelati non solo inefficaci nell'eliminare il serpente indesiderato, un tipo di vipera locale responsabile di un numero elevato di attacchi ai residenti, ma anche predatori di specie rare, come ad esempio il coniglio Amami, oggi in via di estinzione sull'isola, come ha commentato in una conferenza stampa Shintaro Abe, che è il responsabile del parco nazionale Amami-Gunto. È una storia questa che a nostro avviso rivela quanto siano problematici gli interventi di manipolazione degli habitat, con l'inserimento di nuove specie e poi la pretesa di fare marcia indietro a piacimento quando si scoprono degli errori, dei risultati inattesi, come se fosse davvero possibile tornare alla condizione precedente, ammesso che una eradicazione totale sia davvero realizzabile. Ci domandiamo, senza avere risposte certe, se abbia davvero senso parlare oggi di specie aliene e di animali infestanti, quando nuovi contesti, causati da introduzioni volontarie di nuove specie o da semplici migrazioni, si siano ormai consolidati. Dovremmo forse trovare modi di convivenza meno unilaterali, meno arroganti, più problematici. I'm not afraid to die. La ricetta della settimana, curata da Gabriele Palloni, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, è inevitabilmente dedicata ai cani. Sentiamo. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Se la notizia di oggi ci racconta dei cani tenuti alla catena, non dimentichiamo che in questi giorni sono pure stati protagonisti dello sdegno di Sua Santità. E allora, in barba a costrizioni e mancate benedizioni, noi dedichiamo ai nostri veri amici la ricetta di questa puntata. Snack alla mela e carota. Gli ingredienti sono 200 g di farina, 80 g di fiocchi di avena, una mela, una carota, un pizzico di cannella, 2 cucchiai di olio di semi di girasole. Per prima cosa grattugiate carota e mela. In una bowl versate la farina, la cannella e l'olio di semi. Impastate, quindi aggiungete mela e carota grattugiate ed infine i fiocchi di avena. Se l'impasto dovesse risultare troppo asciutto, aggiungete un cucchiaino di acqua, altrimenti l'umidità di frutta e verdura sarà sufficiente. Lavorate fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo che lascerete riposare per mezz'ora. Recuperate l'impasto e con le mani realizzate tante palline grandi come ceci. Mettete gli snack su una teglia con della carta forno e cuocete in forno statico a 180 gradi per 15-20 minuti. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa rete. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.